Hola. Attenzione, binario 10, cambio. Hola. Attenzione, binario 10, cambio. Attenzione, binario 10, cambio. Attenzione, se ascoltate tutti un che chiama, cambio. La stazione. Ah, non ti stavo caprendo. E allora? Come gira questa radio? Cambio basso. Ma la registri? Registra. Registri. Aspetta, aiuto. Fa andare questa radio. Attenzione, Ginko, se ascolti l'isola sarda che chiama cambio basso. Una bomba, sì. La modulazione è una bomba. Andare. Allora. Stava borbottando, avanti. Allora, ci date un daggio? Stavo facendo una prova a vedere come va la regolazione. Ginko, non me lo mandi il filmato? Mandatelo, aspetta che lo ascolti. Ho visto quella cosa che hai messo, perché non hai aggiunto troppo di soldi? Ma mi ha dato nulla, Gito, non c'è nulla. Mi sta subalando la testa, ho fatto malato. Non c'è nulla già. Sì, va bene, l'hai messo, non lo vuoi vendere. Mi fanno adesso. Ok. Non si apre, Gin. Cinco, non si apre. Si apre. Non si apre, sono letto. Lungo come file. Ma dunque no. È un file molto lungo, molto lungo. Ma cazzo, se ti devi ascoltare come tu fai. Ma per aprirlo ci metto un bel gusto. Non mi preoccupaggio di botti. Invece di botti da tenni ci sono armati. Aspetta. Ma ero più aggredito che arrivi. Che bello. Attenzione, Ginko. Ah, comunque, questo Royal anda bene nera, modulazione super 5, va benissimo, Gianni, una bella modulazione che ti dà quella radio, capito che hai? Fiumi sul 45, c'è ombre di propagazione. Dove? Sul 45 c'è ombre di propagazione. Io vi a vedere. E vai. Attenzione 10 per una prova radio. Attenzione 10 per una prova radio. Ora 1, 2, 3, 4, 5 prova radio. Ora 1, 2, 3, 4, 5 prova radio. Ora 1, 2, 3, 4, 5, prova radio. 1, 2, 3, 4, 5, prova radio. Prova. Ora, ora, ora. 1, 2, 3, 4, 5, prova radio. Prova. Ora 1, 2, 3, 4, 5, prova radio. C'è nessuno sul canale 10? CQ canale 10, c'è nessuno? Ora prova. 1, 2, 3, prova radio, ce ne sono su 10? Ciao, che sei, Roberto? Assolutamente no, sono Minuccio, sono nuovo, dai. Con vecchio di baracchino, ma che senza lì. Non... in genere a scuola. Ok, ciao, Minuccio, Claudio Spavero da Sassari, dai. No, sto provando anche io un vecchio baracchino degli anni 70 e non riesco ad ascoltarmi bene in cuffie, volevo sapere se mi ascoltavi bene. Ok, perfetto, allora se mi dici che va bene così, lo lasciamo così, dai. Perché non riesco ad ascoltarmi bene, non mi piace la modulazione in cuffie, però mi hanno già detto che va bene, quindi la lasciamo stare così. Ora, ora, ora, va bene. Dai, mi pare a te va bene, la voce è un po' metallica, un po' forte, per cui alla fine di tutto un po' metallica, però è chiarissima. Hai detto che la voce è metallica, quindi insomma dobbiamo cercare di smorzare così. Vabbè. Va bene, ok, la lasciamo stare così, dai, perché me l'hanno già regolata e quindi, però io continuo a non sentirmi bene in cuffie, vabbè, poi vediamo se stasera c'è qualcuno qua, chiedo il parere di qualcuno, dai. Va bene, dai, rimango in ascolto, ci sentiamo dopo al limite, va bene? Grazie del controllo, eh? Ok, ciao, grazie a te. Allora, c'è qualcuno qua anche nel 10 o no? Vediamo un pochino se c'è qualcuno qua nel canale 10. C'è nessuno nel canale 10? C'è nessuno nel canale 10? 1, 2, 3, 4, prova. Prova radio canale 10, c'è nessuno? Vediamo un po'. Prova. Vediamo un po' se va bene così. C'è nessuno sul canale 10? CQ canale 10? CQ canale 10, c'è nessuno? C'è nessuno? Ora 1, 2, 3, 4, 5 prova radio. Ora 1, 2, 3, 4, 5 prova radio. Ora 1, 2, 3, 4, 5 prova. Thank you. così. Claudio. Oh, ciao Riccardi, buonasera, ben ascoltato. Come mi ascolti di radio? Sì, ma va, è perfetto, vi stavo ascoltando sul 23 e anche adesso sta andando benissimo. E niente, mi sa che questa volta, come dire, l'ultima volta che trasmetto da questa base, adesso devo piazzare l'antenna lì in sopra casa. Ah sì, me l'ha detto tuo padre. Praticamente la metti dentro casa, dai. Va bene Riccardino, ok. Quindi mi stai ascoltando bene. Sto andando con Lino It. Mi sembra di sia uguale a quello che hai tu. L'ho ritirato stasera, perché stamattina c'erano dei quarti messi male, quindi non andava bene. Allora sono andato a casa di Gianni e me li ha messi tutti a posto. Lui è un grande mago a fare queste cose, Gappa. So che è un mago anche lui, Gianni il Muro. Comunque, che microfono stai usando, se puoi dirlo? Io sto usando l'MB più 5 con l'Inuit, dovrebbe essere uguale a quello tuo, quello nero, insomma, uguale a quello lì, dai. Sta uscendo benissimo, mi piace molto la radio. Vabbè, tieni conto che io ho delle corde vocali molto molto molto alte e quindi è per quello che esco così, però va bene, dai, ottimi picchi di modulazione, quasi 10 watt, 8 watt modulati quasi 10, già va bene. No, mi piace molto questa radio con come stai uscendo. Secondo me, come dalle corde vocali, esci anche con un bel microfono palmare. Lo so. No, vabbè, adesso il microfono palmare dentro il cassetto mi vuole stare lì a tira e molla. Però questo già va bene, dai, si può andare bene. 1, 2, 3, 4, eccolo qua, ce l'ho a metà e i toni sono a 1,5, come erano sempre regolati, dai. Brava. Da Claudio, mi sa che inizio a impiantare questa antenna, la provo e ci sentiamo più tardi se riesco a finire il lavoro, così stasera provo se riesco a trasmettere da quella postazione dentro. Va bene Riccardi, dai, io metto a posto qua, ok, c'è un casino nero, va bene, dai, ci sentiamo dopo, ciao. Ah, anch'io stacco, ci sentiamo dopo, ciao Claudio. C'è molta propagazione, ti ascolto male. Sì, tutto ok? Dai, si lavora, oggi è molto caldo. Comunque dai, prima o poi doveva arrivare questa estate, dai. Oggi stanno arrivando segnali fortissimi dalla Francia, dall'Italia, cioè il nord Italia, un po' dappertutto. La sentirei anche tu la propagazione, sì. Adesso non sei passato adesso, stanno arrivando più forte gli stranieri. K, positivo, un abbraccio, dai, stammi bene. Attento, doppio rum. Hola. Tutto bene? Avanti, canale 10.